GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. È ancora il dopo derby a tenere banco nelle discussioni del calcio nostrano, che pure a partire da domani vivrà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Proprio l'Inter scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio, ma il patron nerazzurro Massimo Moratti non riesce ancora a mandar giù quel primo tempo della stracittadina, con un Inter troppo timida e poi infilata dal Milan nella ripresa. Altro che rimpianto, è stato impostata certamente in maniera tale, non credo che fosse fatto apposta, però alla fine è venuto fuori un primo tempo assolutamente troppo di ritegno, insomma, nei confronti di quello che fosse. La colpa Mancini, lei che pensa? No, tutti la colpa Mancini non mi sembra. Io penso che tutto sia stato affrontato certamente con molta prudenza, ma purtroppo in certe occasioni la fortuna premia chi ha più coraggio. Tutt'altra atmosfera in casa milanista. Ieri le prime parole da rossonero del francese Flamini, centrocampista acquistato dall'Arsenal. Grazie mille, sono molto contento. Sì, grazie mille. Gagliani intanto pensa al quarto posto ritrovato in campionato e svicola dal tema Ronaldinho. Adesso abbiamo ancora due partite toste, perché a Napoli è difficile, l'Udinese sta giocando bene, domenica siamo senza Pirlo, insomma dobbiamo concentrarci. Adesso pensiamo al campionato per due domeniche, dopo pensiamo al mercato. Ieri si sono incontrati su un campo da golf per un'iniziativa benefica organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro. Ma Alex Del Piero e il CT azzurro Donadoni potrebbero rincontrarsi anche agli europei di Austria e Svizzera 2008. Per lo juventino vorrebbe dire essere riuscito a convincere il CT a convocarlo. Intanto Del Piero scherza sul colore della maglietta indossata ieri sul green, bianca, proprio per evitare di far pensare male qualcuno. Siamo salutati e siamo fatti in bocca al lupo. Oggi ci siamo presi come è giusto che sia. Non è sede oggi di mettersi a parlare di queste cose e poi lui deciderà. Non volevo mettere in difficoltà, cioè per la par condicio ho scelto un colore tenue che per il momento non significa niente. Per il ciclismo, presentati ieri a Malpensa ai mondiali di Varese 2008 che si svolgeranno dal 23 al 28 settembre. Per il CT Ballerini, squadra da inventare tenendo conto del doppio impegno Olimpiadi e Mondiale. Unico sicuro del posto nelle due manifestazioni Paolo Bettini, campione in carica, olimpico e iridato. Non è semplice essere super competitivi ad agosto ed esserlo anche a fine settembre, quindi vedremo, non è detto che quelli che fanno le Olimpiadi tutti faranno il mondiale, l'unico che farà le due gare, sugli altri vedremo. Chiudiamo col tennis, prima giornata degli internazionali d'Italia a Roma, condizionata dalla pioggia. Tra gli azzurri passano al secondo turno Seppi, che ha superato in 2-7 il veterano francese Santoro, e Starace, che ha eliminato il croato Cilic in 3-7. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14, ancora una buona giornata da Dario Ricci.